Osservate con attenzione come crescono i numeri. Cercate uno schema. La differenza tra un numero e l'altro vi dice qualcosa?